Questo è un podcast di Rivista Militare. Finita la guerra, continua il terrore, la minaccia delle armi zombie, gli ordigni inesplosi post-conflitto, di Giampaolo Cadalano. Il trattato di pace è definito, i diplomatici hanno firmato, i cacciabombardieri spengono i motori, le navi coprono le bocche d'artiglieria, i soldati tornano a casa, qualcuno con cicatrici sul corpo, molti con ferite nell'anima. Non si spara più, ma anche quando i combattimenti finiscono, la guerra, con la sua capacità di distruzione, va avanti, anche se le armi tacciono. Tutto è cambiato. Il quadro generale è di devastazione. In termini globali e sociali, conseguenze come l'annichilimento di territorio, forza lavoro e risorse economiche sono evidenti. Nessuna nazione coinvolta in modo diretto viene risparmiata. Quelle che hanno partecipato al conflitto in modo indiretto dovranno fare i conti con bilanci politici ed economici. La vita andrà avanti, ma per tutti sono evidenti le difficoltà della rinascita. Ma prima ancora di una visione sociale, politica e filosofica che valuti gli effetti dei conflitti nel lungo termine, chiunque si occupi di temi militari si trova di fronte a un problema estremamente concreto: la continuazione non voluta dell'attività violenta. A voler creare un'immagine suggestiva, vengono in mente le sequenze dei film di zombie, con morti viventi che si alzano, camminano, spaventano, uccidono. Le guerre lasciano nei territori colpiti un'eredità letale, con interi eserciti di armi zombie pronte a straziare gli esseri umani ben dopo che questi hanno tirato un sospiro di sollievo pensando che il peggio fosse passato. In questo film dell'orrore, i primi armamenti che colpiscono in tempo di pace sono gli ordigni non esplosi, quelli che i militari chiamano UXO, cioè Unexploded Ordnance. Sono in sostanza strumenti di morte che continuano a uccidere senza diretta volontà dell'operatore umano. Proiettili da cannone, granate, bombe da mortaio, bombe da aereo, razzi, mine, vanno avanti a colpire e distruggere senza essere attivate da una coscienza. Fra le più odiose ci sono le munizioni da bombe a grappolo, le cluster bomb. L'Italia e altre 123 nazioni hanno scelto di non utilizzare queste ultime, dopo aver aderito alla Convenzione di Oslo del 2008 che ne chiedeva la messa al bando. Ma altri paesi continuano a produrle e usarle. Fra questi ci sono gli Stati Uniti, la Russia, l'Ucraina e Israele. Nel marzo scorso, Washington ha annunciato che avrebbe rifornito Kiev con gli stock più obsoleti dei suoi arsenali, suscitando forti critiche dalle organizzazioni per i diritti umani. Le cluster erano state sperimentate dalla Luftwaffe già durante i bombardamenti incendiari della guerra di Spagna, compreso quello di Guernica, e furono poi adottate anche dall'aviazione italiana, giapponese, americana, britannica e sovietica, contribuendo a straziare intere città, da Tokyo a Dresda. Al di là dell'effetto nella versione incendiaria, corredata da fosforo bianco o napalm, sono considerate armi spregevoli perché il loro utilizzo prevede il lancio, dall'aereo, con un missile o anche con l'artiglieria, di un nucleo principale che si apre a un'altezza prefissata distribuendo le submunizioni esplosive su aree molto ampie in modo difficilmente controllabile. L'utilizzo militare prevede che tali ordigni esplodano immediatamente all'impatto con il suolo. Ma in larga percentuale questi rimangono inesplosi, costituendo di fatto dei campi minati in agguato nel terreno, pronti a straziare ogni passante. La distribuzione dall'alto non è regolare, le submunizioni cadono in ordine sparso e questo rende la bonifica del territorio molto più lenta e complicata. Lo raccontavano ai giornalisti i militari italiani impegnati nella missione UNIFIL di interposizione fra le forze israeliane e le milizie di Hezbollah. Già dai primi giorni dello schieramento in teatro, nel 2006, dovettero affrontare il problema proprio nella zona che era stata individuata per far sorgere la prima base. A Marachi, nel sud del Libano, i bombardieri con la Stella di David avevano disseminato la regione con questi ordigni e il paese dei Cedri non aveva sicuramente le risorse per bonificare in tempi rapidi. Gli specialisti dell'operazione, bardati dalle protezioni, si avvicinavano con estrema cautela alle zone infestate. E ovviamente la ripulitura del territorio era lunga e difficile. Alla base della scelta militare per l'uso delle cluster, spiegavano gli ufficiali dell'operazione Leonte, ci sono anche considerazioni economiche. Le bomblet costano 1-2 euro, la bonifica 100 volte tanto. L'eredità di morte resta un incubo anche dopo decenni. Secondo l'organizzazione internazionale Human Rights Watch, solo nel Laos sono 80 milioni le bomblet ancora disperse sul terreno dopo la guerra del Vietnam, pronte a uccidere e a mutilare per decenni i civili. Poco diverso è il caso delle mine antipersona. Anche queste restano attive per decenni, pronte a mutilare e uccidere civili. Unica differenza significativa è il fatto che almeno in teoria queste dovrebbero essere piazzate seguendo una logica e quindi dovrebbero essere rintracciabili attraverso le mappe. Ma questa appunto è solo una teoria. Chi dispone le mine molto spesso trascura di mapparle e a volte la pioggia o altri eventi meteorologici le trascinano via spostandole al punto che le mappe non servono più. In Afghanistan, alle bombe distribuite dagli aerei dell'Armata Rossa negli anni 70, i famosi pappagalli verdi che spesso i bambini afghani scambiavano per giocattoli, con l'arrivo dei talebani si sono affiancate le mine antipersona, perché, raccontavano gli analisti della missione internazionale ISAF, le bande di integralisti in movimento seminavano mine attorno ai loro accampamenti, così da proteggerli anche senza bisogno di sentinelle, per poi andarsene lasciando gli ordigni in agguato. Dopo oltre 30 anni di operazioni di pulizia, finanziate ampiamente dall'ONU e da altri donatori, il paese resta uno dei più colpiti da questa piaga. Secondo i dati della Brown University, dal 2001 in poi sono oltre 20.000 le persone mutilate o uccise da bombe non individuate. Nelle scuole del Kurdistan iracheno, vicine al confine con l'Iran, anche i bambini più piccoli sono in grado di indicare sui tabelloni di avvertimento i diversi modelli di mine e spiegare ai giornalisti. Basta una frana perché le Valsella e le Valmara distribuite nella zona dalle forze di Saddam Hussein negli anni 80 e secondo gli esperti il Rais ne aveva comprate tra i 12 e i 20 milioni, si spostino e trascinate dal fango scendano dai monti Zagros fino ai villaggi curdi. E in ogni famiglia si conta almeno un mutilato. In Cambogia, dove l'aviazione statunitense ha bombardato a lungo durante la guerra del Vietnam, l'area infestata dalle cluster è ridotta a 650 km quadrati. Ma fra mine antiuomo e residuati bellici, la zona pericolosa per i civili è enormemente più vasta, tanto che dal 1979 a oggi sono morte almeno 20.000 persone. I dati diffusi dall'ultimo rapporto del Cluster Munition Monitor precisano che il 93% delle vittime è composto da civili. Molto vicini alle mine antipersona sono gli ordigni stradali artigianali, quelli che sono diventati famosi nella divulgazione giornalistica come YED, ossia Improvised Explosive Device. Sono stati protagonisti delle guerre in Afghanistan e in Iraq, colpendo i mezzi di trasporto e i militari a piedi. Secondo il Pentagono, più della metà delle vittime americane furono provocate da questi ordigni e l'efficacia sembra essere moltiplicata. Secondo uno studio realizzato dal Dipartimento dell'Esercito e dal Ministero della Sanità statunitensi, c'è un collegamento diretto fra frequenza di ritrovamento degli YED e suicidi tra i militari. In altre parole, la minaccia delle mine artigianali aumentava in modo significativo la sindrome da stress post-traumatico. Ma anche qui, ovviamente, la letalità dell'ordigno non finisce con la cessazione dei combattimenti. La costruzione autarchica, con metodi improvvisati e spesso con strumenti rudimentali e materiali di risulta, li rende del tutto imprevedibili anche per eventuali operazioni di smistamento. Anche quando si riesce a individuarle, insomma, le armi zombie impongono una bonifica lenta e costosa, quasi a confermare che l'eredità della guerra è sempre di distruzione. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.